Questa ricerca è stata effettuata nel corso del 2020 in Italia, in tre regioni in particolare, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio, e ci ha permesso di raccogliere esperienze, punti di vista e criticità da parte di esperti, attori della società civile, tra loro molto differenti, anche attori istituzionali. L'obiettivo era quello di comprendere e approfondire quei fattori che effettivamente possono portare la popolazione giovanile a mettere in atto dei comportamenti violenti. Si tratta di un approccio che porta a superare una prospettiva di mera securitizzazione attraverso cui vengono affrontati spesso questi processi. Processi che chiamano in causa molti fattori, penso a fattori politici, economici, sociali, psicologici. Ci si concentra non tanto sulle misure repressive, sulle misure hard, ma su quelle soft, definendo quindi problemi non tanto in termini di insicurezza, ma di disuguaglianza, di povertà, di ingiustizia. In altre parole, si vuole evitare una gestione delle disuguaglianze sociali che altro non farebbe escludendo, segregando, rendendo sospetti determinati gruppi che alimentare l'estremismo violento, senza agire effettivamente sulle cause strutturali della disuguaglianza. La dimensione micro è quella che si focalizza sull'individuo, sul suo background. Condizioni di vita difficili, penso alla mancanza di risorse, di occupazione, di opportunità educative, ma anche di prospettive future, oppure anche l'impatto di esperienze traumatiche, dirette o indirette, penso a vissuti di violenza, di esclusione, ad arresti, possono evidentemente contribuire a sviluppare processi di estremismo violento. Diversi studi sottolineano come, nella maggioranza dei casi, non vi sia una correlazione tra estremismo e basso status socio-economico o occupazione. E non vi sarebbe neanche una chiara correlazione tra bassi livelli di istruzione ed estremismo. Sono diversi casi di soggetti responsabili di comportamenti estremisti che sono altamente istruiti. Questo non significa però che l'aspetto educativo non sia importante. Può sicuramente impedire l'adesione a narrazioni estremiste o fortemente ideologizzate. E infine rimando a episodi di discriminazione ed esclusione subite, che è molto ricorrente tra gli autori di azioni violente, anche se queste giustificazioni possono essere a volte speculative, strumentalizzate. La narrazione risulta infatti cruciale per giustificare la violenza contro gli altri ed è per questa ragione che attuare interventi di contronarrazione e progettare interventi ad hoc rivolti a individui particolarmente a rischio di estremismo diventa fondamentale. Passando invece alla dimensione meso, partirei da una citazione. All'inizio cercavo un gruppo che mi trasmettesse delle cose di cui avevo bisogno, sicurezza, appartenenza. Avevo un problema da superare, l'accettazione di me stesso. Se entri nel gruppo sei uguale agli altri e le tue diversità non le vedi più o le vedi di meno. Sono partito da questa citazione del testo di Berizzi proprio perché è emblematico di come l'identità sociale o collettiva nasca dall'appartenenza a un gruppo, in grado di fornire valore e significato alle vite dei singoli membri e in particolar modo alle vite dei membri più vulnerabili. E questa identità può diventare anche più importante di quella personale, in quanto il gruppo è in grado di offrire una precisa visione del mondo attraverso slogan che sono semplici, che forniscono anche una sensazione, direi, utopistica. E per questa ragione la radicalizzazione può essere considerata un processo sociale. Religione ed appartenenza etnica sono sicuramente alcune tra le più potenti espressioni di identità individuale di gruppo che possono essere strumentalizzate. Attenzione da gruppi estremisti, ma anche da elite politiche, che attraverso rappresentazioni distorte, penso alle narrazioni nei confronti dei rifugiati, possono effettivamente radicalizzare o generare insicurezza. E il rischio è che tale isolamento porti questi individui a essere più vulnerabili alla radicalizzazione. Se diversi soggetti radicalizzati hanno effettivamente iniziato il proprio percorso di fede all'interno delle moschee, è altrettanto vero che un'alta percentuale presto se ne discosta, giudicandolo un ambiente troppo moderato o perché ne viene rigettato. Allo stesso modo il carcere viene ritenuto un luogo chiave per la radicalizzazione, i fattori infatti di radicalizzazione al suo interno possono essere molteplici, il risentimento verso la società, la reclusione di per sé, il possibile mancato rispetto dei diritti dei detenuti. Ma la radicalizzazione in carcere resta, in ogni caso, almeno in Italia, è un fenomeno con numeri molto molto bassi. E infine gli aspetti macro. Secondo alcune analisi, l'assenza di libertà civili può essere considerato il predittore più affidabile di terrorismo. In altre parole, l'emarginazione di particolari gruppi può aumentare il rischio di estremismo violento. Fattori di politica internazionale, di politica interna, la polarizzazione politica stessa, penso ancora una volta alla retorica utilizzata dai gruppi populisti di estrema destra, seminano infatti del terreno fertile sul processo di una radicalizzazione dei soggetti. E nella dimensione macro può essere compreso anche il ruolo dell'online, in quanto la ricerca di modelli con cui identificarsi spesso passa attraverso i mass media, attraverso la rete, da Breivik in Norvegia nel 2009, per poi collegarmi agli attentati in Nuova Zelanda, in Texas, in Germania degli ultimi anni, con la pubblicazione di memoriali o dirette degli attentati. E un primo passo sarebbe quindi quello di decostruire i legami tra polarizzazione e radicalizzazione nel dibattito pubblico. E il ruolo dei media è estremamente importante nel perseguire una narrazione alternativa e una comunicazione responsabile. La narrativa utilizzata dalle forze xenofobe, una volta diffusa, fa sì che alle violenze retoriche e verbali facciano spesso seguito anche quelle fisiche. Il caso laziale è emblematico a riguardo, penso ai diffusi attacchi contro le strutture appartenenti al circuito di accoglienza. E il tutto che avviene tramite dinamiche ricorrenti, l'istituzionalizzazione di un capro espiatorio, la narrazione del noi contro voi, eccetera. Da qui la necessità di lavorare sui termini utilizzati e la necessità di fornire strumenti che permettano di verbalizzare in modo corretto la rabbia senza che si agita. All'interno della ricerca ci siamo essenzialmente concentrati sul contesto italiano degli ultimi 30 anni e ad emergere sono essenzialmente due fenomeni, quella della radicalizzazione islamica e soprattutto il terrorismo legato all'ultradestra. In merito alla prima, in realtà sono minori i livelli di radicalizzazione in Italia rispetto a quelli riscontrabili in molti altri paesi europei. In merito alla seconda, invece, secondo l'indice globale di terrorismo, il terrorismo di destra a livello internazionale è cresciuto del 320% nel corso degli ultimi 5 anni e concentrandoci sull'Italia sono oltre 200 gli attentati e le aggressioni di stampo fascista avvenuti dal 2014 ad oggi. E aspetti che non riguardano solo gli adulti, ma anche i più giovani, bambini e adolescenti che sono agganciati da certi gruppi e associazioni nei modi più disparati. Infatti sono 5.000 le pagine Facebook riferibili all'estremismo di destra, censite tra il 2015 e il 2018, e hanno prodotto circa 2 milioni di post.